E buongiorno a tutti, eccoci, siamo tornati anche oggi con Radio Vauvalla, qui in diretta da Piazza Carignano, per parlarvi di Biennale Democrazia, anche oggi, e siamo qui con i ragazzi del Performing Media Lab. Io sono Marco, ciao a tutti. Io sono Eros, buongiorno a tutti. E loro sono, come già è stato ieri e giovedì, i nostri compagni di viaggio per questo evento. Che seguiamo appunto da Torino e beh, ovviamente i nostri ascoltatori già lo sapranno che cos'è Radio Vauvalla, e la nuova radio che nasce ad Ivrea più o meno un mese fa, sarà passato anche un po' di più, e siamo la nuova radio che trasmette solo brani Creative Commons e che porta avanti tutto quello che c'entra con il Creative Commons e la distribuzione libera della cultura e dell'informazione. E sì, noi oggi, come giovedì e venerdì, siamo in Piazza Carignano, dall'X Media Van, il camioncino degli A-Team Nerd, però, e questa oggi rispetto agli altri due giorni approfittiamo del fatto che non sia ancora cominciato l'incontro, che quindi non ci sia il maxi schermo sonorizzato, per fare una diretta aperta alla piazza. Quindi salutiamo tutte le persone in coda e vi auguriamo per dopo un bel appuntamento in Teatro Carignano, e vi ricordiamo che Biennale Democrazia quest'anno è dedicata al tema dell'utopia. Il titolo è Utopico possibile con il punto di domanda, ed è una riflessione sull'importanza, sul senso del futuro per la democrazia, sull'importanza delle utopie ai fini di una bella democrazia, di una buona democrazia. Potete seguirci sul canale di YouTube di ACMOS, che è ACMOS Staff, dove sono presenti tutta una serie di servizi sugli incontri di Biennale Democrazia, su Facebook sulla pagina di Radio Vauvalla, sempre esatto. Su Facebook sulla pagina Biennale Democrazia Giovani e Scuole e sulla pagina ACMOS. Esatto, ricordiamo a tutti gli ascoltatori di seguirci sul nostro sito, sul canale Facebook, il canale Twitter @ Radio Vauvalla. E intanto mandiamo il primo pezzo della giornata. E adesso ascoltiamo Daniel Berg and Windsurfer con Ain't That Good News. My baby is coming home tomorrow, and that good news, yeah, that news. My baby is coming home tomorrow, and that news, and that news. I got a letter just the other day, telling me that she was on her way. Good news, yeah, that news. Eccoci in onda. Eccoci qui, allora. Siamo oggi è il primo giorno in cui tutto va bene, vero Marco? Tutto va a gonfie vele, siamo puntuali, funzioniamo, ci sentiamo, quindi siamo contenti. È il primo e ultimo giorno, però. Eh beh, però si finisce benissimo, il dulcis, dai, il classico dulcis in fundo. Esatto. Siamo puntuali, ieri abbiamo avuto qualche problema, abbiamo fatto una piccola diretta di solo un quarto d'ora alla fine e quindi non siamo riusciti a dire neanche tutto quello che ci eravamo preparati. Che cosa ci siamo persi? Sì, in particolare ci siamo persi uno degli appuntamenti più importanti per noi di Acmos, che è stato l'incontro con Alberto Salza, incontro poveri di relazioni. Alberto Salza è un antropologo che fa la cooperazione internazionale da più di 30 anni in Africa, e dopo un lungo periodo di lavoro in Africa con quelli che vengono considerati quasi come se fosse uno stereotipo, gli ultimi, i poveri, si è accorto che in realtà un caso particolare di povertà ce l'abbiamo noi soltanto in Europa, che è la povertà di relazioni. Infatti in molte lingue africane non esiste la parola povero, povero è una parola europea. E Salza ha riflettuto insieme a noi su quali sono i modi possibili per cercare di sconfiggere quella che oggi è considerata uno dei mali più importanti, ovvero la povertà di relazioni. Noi abbiamo un clip che adesso Eros manda. La povertà di relazioni è una situazione in cui la capacità di aiutare, di essere aiutati, è ridotta al minimo. In realtà è una cosa progressiva, non avviene tutto o niente, ma avviene tramite un deterioramento culturale di tutta la società. Non si sconfigge la povertà di relazioni. Ma noi tendiamo a lavorare su un cablaggio di tre meccanismi. Uno è la condivisione delle risorse e della persona, la seconda è la reciprocità nelle interazioni e la terza è la complementarietà, il riconoscere l'altro per la sua mancanza. Bene, bene, bene. Benissimo. È stato molto interessante, prima di mandarmi un pezzo, il ragionamento che poi è emerso su quanto il virtuale, quanto i nuovi linguaggi possano incidere su questa povertà di relazioni. Abbiamo molto dibattuto su questo tema insieme a Salza, insieme anche agli ospiti al Teatro Gobetti dove si è tenuto l'incontro, ma di questo argomento ne parliamo dopo il prossimo pezzo, che è... Il prossimo pezzo è Prana con Eyes in My Mind. Anyone torniamo in studio. E siamo studio all'aperto, no? Studio aperto, non no, magari quello studio televisivo. No, cioè, cioè, no, no, perché diciamolo, cioè, ieri e giovedì eravamo dentro il furgoncino, oggi siamo in piazza, in diretta, tutti ci stanno ascoltando dalle casse. Sì, ci hanno liberati come le scimmie allo zoo, esatto. Quindi finalmente abbiamo qualcuno con cui parlare, non parliamo solo a noi stessi. E parlavamo di relazioni e web, è un filone interessante sviluppato molto da Biennale Democrazia, in particolare dal Centro Nexa. Oggi abbiamo partecipato come Performing Media Lab a uno degli incontri del Centro Nexa che si chiama Le Utopie della e-Democracy. Siamo qua appunto con uno dei membri di ACMOS, Roberto, del Free Media Lab, che ci racconta com'è andata. Allora, ciao a tutti. Allora, noi come Performing Media Lab, come giovani di ACMOS, abbiamo deciso di adottare questo incontro, adottare tra virgolette, questo incontro di oggi pomeriggio, nel senso che ci siamo impegnati a prepararci prima sui temi e a ideare alcune domande da sottoporre ai relatori. E niente, in sostanza si parlava di e-democracy, ovvero di sistemi per spostare le pratiche democratiche, cioè per quanto possibile, verso la rete, verso internet, in modo da ottimizzarle in qualche modo. E cioè, l'incontro era più che altro, cioè l'obiettivo era evidenziare quali possono essere gli aspetti positivi e quali possono essere i tanti aspetti negativi. Gli ospiti erano Roberto Casati, filosofo, poi Juan Carlos De Martin, che è un professore al Politecnico di Torino e si occupa di molte cose come Creative Commons, eccetera, e infine Alexander Trexel. Io faccio un breve riassunto di quello che hanno detto, facendo anche magari delle considerazioni che abbiamo fatto come Performing Media Lab. Casati diceva che c'era una contrapposizione tra coloro che pensano che è meglio spostare verso il digitale tutto ciò che è possibile spostare verso il digitale. Quindi, ad esempio, la fotografia è giusto che sia spostata verso il digitale, però ad esempio altre cose non è giusto, e cosa è giusto e cosa non è giusto sono le pratiche umane che devono definirlo. Lui faceva l'esempio dello streaming, del fatto che ad esempio il Movimento 5 Stelle, il suo obiettivo è che lo streaming, cioè che tutte le riunioni avvengano in streaming aperte al pubblico, mentre lui diceva ad esempio che le riunioni a porte chiuse in realtà hanno un futuro, perché in questo tipo di riunioni si dicono tante vaccate, ma ad esempio può esserci invece l'idea singola, magari ne esce una su 100, che però avanza il discorso. Invece una riunione in streaming è una vetrina continua e quindi il dibattito non avanza. Roberto, ti faccio una domanda legata a quello che ha detto De Martin. Secondo te qual è chi ha ragione? Hanno ragione quelli che credono che il futuro sia la democrazia diretta sul web o i partiti? De Martin rispondeva che la soluzione sta nel mezzo, come sembra una risposta un po' così. In realtà lui diceva che la democrazia rappresentativa, la democrazia dei partiti, ha senso solo se viene arricchita da dei tratti di democrazia diretta, come d'altronde si fa in molti paesi europei. Lui faceva l'esempio del débat public francese e comunque dice che la digitalizzazione di alcune pratiche non è necessariamente un male, basta che comunque come sottofondo rimanga l'idea di democrazia rappresentativa, eccetera. Questo era il suo intervento. E qual è la cosa che ti ha colpito di più? Cioè, cosa ti rimane uscito da un momento di questo tipo? A me cosa rimane? Detto che siamo appena usciti dall'incontro, quasi, non ho ancora avuto modo di pensarci. Comunque, se posso dire qualcosa, diciamo che mi ha colpito questo il fatto che dal punto di vista della teorico, quindi questi intellettuali in realtà a questi problemi ci stanno pensando già da diversi anni, infatti ci hanno alle nostre domande hanno risposto sì, però è già un sacco di anni che ci pensiamo, sono problemi che esistono da molto tempo. E quindi in realtà il Movimento 5 Stelle è sì una novità sulla scena politica, ma in realtà questi problemi legati alla democrazia diretta, alla rete, ai processi decisionali sono vecchi, sono abbastanza vecchi, sono molto studiati soprattutto. Grazie mille Roberto. Grazie, Marco, sì. Cosa succede adesso? Dopo andremo avanti a parlare di utopie, di Viene la democrazia, parleremo insieme a Zummo, l'ospite di ieri, di utopie possibili. Però intanto mandiamo un pezzo e prima del pezzo mandiamo uno degli spot preparati dal Performing Media Lab. Uno spot utopico, esatto. E subito dopo il mini spot pubblicitario ci ascolteremo Brin con 148 Song. E adesso la pubblicità. Ma dove... Accidenti, dove ho messo il telefono? Era proprio qui, in tasca. Ah, vabbè. Meno male che hanno inventato queste fantastiche pillole. Adesso ne prendo proprio una. Allora, telefono. Ah, ecco dove l'ho lasciato, nel frigorifero. Con le nostre nuove pillole, se tu ti dimentichi qualcosa, senza effetti collaterali, ne prendi una e subito avrai l'idea illuminante di dove l'hai messa. Ma dove ho messo le pillole? If the sun could come from every direction and erase my shadow, I just wanna make a melody. Listen to your voice close to me, but I can't remember your song, and I keep forgetting your name. Math doesn't add up, it's raining like fun, and Shanghai was my best friend. Now that she's gone, I don't know where to go, running tired and losing. Rieccoci in onda, Marco. Rientriamo nello studio aperto, come dicevamo, e abbiamo qui un ospite che ritorna da, in realtà, ieri, perché c'è già stato, non è una novità, è Andrea Zummo, definito da Nando Dalla Chiesa, presidente della Rete Liberale, il maggior esperto di cinema antimafia, anzi di cinema e mafia. E siamo qui con lui perché volevamo fare uno spin-off sulle utopie tecnologiche e in generale vorremmo chiedere a Zummo di recensirci un film notevole degli anni 90 che si chiama Gattaca. Vai Andrea, raccontaci cos'è. Sì, Gattaca è un film del 1997, a proposito di utopie, il tema di questa biennale è un film particolarmente azzeccato, secondo noi, perché in un ipotetico futuro non meglio definito, in una società che punta alla perfezione, gli individui vengono selezionati attraverso il concepimento in provetta e non più attraverso il classico modo biologico che tutti conosciamo. Ricordi come si chiamavano quei figli? Sì, i validi sono quelli nati in provetta e i non validi sono quelli che invece sono nati alla vecchia maniera. E la storia si incentra in questa pellicola del 1997 di Andrew Niccol, si incentra sulla figura di Vincent, che è interpretato da Ethan Hawke e che è un non valido, è nato alla vecchia maniera, ma ha un sogno, il sogno di volare nello spazio, di raggiungere Titano, e cercherà in tutti i modi di ottenere questo risultato. Per farlo stringe un patto strano con una persona valida invece, questo Jerome, che è nato in provetta ma purtroppo ha subito un incidente e quindi è un invalido ormai, nel senso che vive sulla sedia a rotelle. Lui gli fornisce tutti i campioni necessari per passare i controlli, campioni di sangue, campioni di urina, e Vincent in questo modo riesce a superare i controlli di una società, quella in cui si ambienta il film, ossessionata dalla sicurezza e dall'attenzione, anche se è una società in cui non si riesce a impedire un omicidio che avviene proprio sul posto di lavoro, in questa base spaziale dove lavora Vincent, omicidio che produce la morte di uno dei capi, dei superiori di Vincent, il quale viene addirittura sospettato. Un film particolare che si incentra su un'utopia forse davvero irrealizzabile, quella di una società dove si può controllare la nascita degli individui e selezionare i migliori sulla base della loro mappa genetica e delle migliori cose che possono ereditare dai loro genitori. Ma forse c'è una doppia utopia, perché Vincent, il protagonista, quando nasce, nascendo in quel modo, viene detto ai suoi genitori che ha un'altissima possibilità di cardiopatia e quindi che non ce la farà sostanzialmente, che sarà uno a morire in giovane età. Invece la determinazione, la capacità che ha nel fare le cose, la passione, l'amore anche per la protagonista femminile del film, che è Uma Thurman, forse riusciranno a fargli superare quelle difficoltà che nel freddo calcolo di un'analisi matematica lo davano già per uno spacciato. Un film interessante, con un cast stranissimo, in cui compare anche Gore Vidal, grandissimo scrittore americano della seconda metà del Novecento, e Ernest Borgnine. Guardatelo se vi capita, perché è ancora molto valido oggi e capace di dare spunti di riflessione. Beh, grazie Zummo per il tuo intervento. Qua applaudono. Bene. Riscuote successi ovunque. Esatto, dopo Lincoln ieri, oggi... Sì, è un esperto a tutto tondo, potrebbe parlare di tutto, se si tratta di cinema potrebbe davvero parlare di tutto, da Méliès fino a Christopher Nolan probabilmente. Va bene, adesso andiamo avanti con un altro pezzo, dopo torniamo per parlare di utopie oggi con Andrea. Ok, invece adesso sentiamo Anna Craig con Come Back Home. Kiss goodbye. Is this our last time? I wish I could see you, but the tears cloud up my eyes. I watch as you ride away, but when will I see? Protect yourself and be prepared. dear God, be with him all the time. Shelter him. Don't let him out of your sight. I feel him in my heart. When will I see him again? Come back home. Come back home. Protect your country, but protect your own. Protect your own self and be prepared. Don't be scared. I just want you to come back home. Come back home. Protect your country, but protect your own self and be prepared. Bene, rieccoci qui. Oggi è successone, veramente, ci stanno scrivendo sui social, sappiamo che ci seguono da mezza Italia, oggi sta andando proprio bene. Ci scrivono da Udine, da Milano, da Roma, da Biella, da Pescara, da Vicenza, la Corunna? Dov'è la Corugna? Vabbè, insomma, dappertutto. Comunque vicino a Narnia. Ah, vicino a Narnia. Bene. Intanto andiamo avanti qui. Abbiamo un nuovo ospite, Andrea. Ciao a tutti. Ciao Andrea. E con te parliamo di utopie attuali, giusto? Di cosa parliamo? Giusto. Oggi parliamo di un materiale innovativo che è il grafene. Ah, bene. Che cos'è questo grafene? Allora, innanzitutto il grafene è un materiale sottilissimo, composto da un solo strato di atomi di carbonio. Bene, per chi ha un po' di familiarità con la chimica, pensate al benzene, a questo esagono di carbonio con sopra e sotto una nuvola di elettroni. Per chi non ha troppa familiarità, la metafora culinaria che piace tanto all'amico Marco Maccarrone e pensare a un panino dove la carne è composta da tanti esagoni, tante cellette di carbonio, come se fosse un nido d'api, e il pane sopra e sotto è fatto da una nuvola di elettroni che permette di condurre molto bene l'elettricità. Wow. E che cosa serve? Come l'hanno scoperto questo materiale? Ma allora, scoperto non è proprio il nome adatto, perché insomma si conosce da anni. Se pensi alle matite per scrivere normalissime, mi è venuto in mente esattamente prima. Perché la grafite, che cos'è? La grafite sono tanti fogli di grafene messi uno sopra l'altro, tenuti insieme da delle forze molto deboli. Quando tu scrivi su un foglio con una matita, non fai altro che staccare tanti di questi foglietti e lasciarli sul foglio, che lasciano il segno nero del tuo tratto. E la difficoltà non era, cioè insomma, il grafene è già conosciuto da molto, la difficoltà stava nel riuscire a tirare fuori un solo fogliettino da questo strato di grafite. E il metodo è molto divertente, perché i due ragazzi che poi si sono messi a scrivere. No. No, hanno vinto il Nobel per questa scoperta. E come è avvenuta? Di loro, nel loro laboratorio hanno questa usanza che sta nel fatto che il venerdì pomeriggio, invece che fare esperimenti seri, cazzeggiano. Insomma, avevano questo blocco di grafite e ci hanno attaccato sopra un foglietto di scotch, un pezzettino di scotch. Hanno visto che tirando veniva fuori uno stratello singolo di grafene. Wow. Bene, poi il passo successivo è stato quello di trovare un modo un pochino più efficiente dello scotch per isolare il grafene. Eh sì, perché quindi, cioè, va bene cazzeggiare, però poi... Fino a un certo punto, insomma. Poi fai fuori troppo scotch e costa lo scotch. Cosa hanno pensato? Di cuocere col laser la grafite. E come hanno fatto? A casa. Sì, infatti uno di questi due ragazzi che ha vinto il Nobel ha vinto anche l'IG Nobel, che è un po' il Nobel cazzone della scienza. Il Nobel cazzeggio. Sì, ha vinto per aver fatto levitare una rana su un campo magnetico. Wow. Chissà se anche noi in Piazza Carignano cazzeggiando così scopriremo qualcosa. E niente, insomma, per cuocerla col laser cosa hanno fatto? Hanno deposto uno strato di ossido di grafite su un DVD, normalissimo, hanno messo dentro al lettore DVD e hanno schiacciato play. E quindi, oltre ad aver trovato un nuovo uso per i lettori DVD che oramai stanno morendo, sono riusciti anche a sintetizzare questo singolo strato di grafene. Hanno salvato l'economia. Esattamente. E poi il primo passo da fare era testare un po' queste proprietà. E si è scoperto di questo materiale. Si è scoperto che il grafene è il materiale più duro sul pianeta, anche più del diamante. Perché? Perché ha la stessa struttura del diamante, solo bidimensionale invece che tridimensionale. Ha la stessa resistenza, anzi maggiore, dell'acciaio ed è leggero come la plastica. E la prima prova che hanno fatto è stato caricarlo un pochettino, 10 secondi con una scossa elettrica, poi l'hanno attaccato in una lampadina e questa lampadina è rimasta accesa per più di 5 minuti, a dimostrazione delle capacità da batteria, insomma, del grafene. Wow, e quindi cioè, può essere utilizzato un po' in diversi campi? Può essere utilizzato dappertutto, in moltissimi campi, mischiandolo con altri materiali, con polimeri o altri materiali particolari, per fare applicazioni infinite, insomma. La particolarità di questo materiale è che aumenta di almeno un ordine di grandezza le caratteristiche dei materiali precedenti. Insomma, si può usare per fare l'antiruggine perché è idrorepellente, ma è l'antiruggine migliore che si può fare. Si può fare per fare delle casse, delle casse, sì, cioè per la musica, insomma. Ah, okay. Degli altoparlanti. Degli altoparlanti, okay. Sì. Poi, come detto, può essere usato per i condensatori, quindi come batteria. Ci sono delle applicazioni che pensano di creare delle batterie per computer che si ricaricano in 30 secondi. Wow. E poi stanno cariche per più di 10 ore. E altre cose come gli schermi flessibili, tutti i vari transistor flessibili, computer piegabili, accartacciabili, che puoi mettere in tasca. Insomma. In pratica con una cosa sola, uno sviluppo in avanti enorme campi. In tutti, esatto, i campi. Esattamente. Wow. Quindi utopico per questo. Utopico perché questo materiale permette di fare un passo avanti in ogni, cioè qualsiasi applicazione che ti può venire in mente. Ci metti un po' di grafene come la bacchetta magica e ti fa fare dei passi avanti notevoli. Wow, bene, benissimo. Allora, grazie Andrea, grazie per il tuo intervento. E adesso direi di mandare un altro pezzo. Eros, okay. Dimmi un po' cosa allora, abbiamo. Adesso ci ascoltiamo Victoria Cafè con Sunday Walk. Seems to shake for months and no morning. Who's watches on the phone? She said, no one is at home again, born in here. Can't really get who's calling. I ran in the car, swimming. Says yes anyway. She says, good sense of humor. I'll meet you in 1 hour, but don't be late. Don't be late. skin is turning white. Let's have a war. Sometimes I miss my dear, my only reason for not being sad, reason for not being mad around a coffee. Tell me, when I just sleep again tonight, I need to face alone. Let's find out what is right. Let's have a in diretta dal nostro studio aperto, e non è una metafora nel nome di un telegiornale. Siamo qua su Radio Bawalla con Gabriele Magrin, direttore scientifico di Biennale Democrazia. Gabriele, ti facciamo tre domande. La prima è: perché quest'anno la Biennale Democrazia è stata dedicata al tema dell'utopia? Buonasera a tutti intanto. Utopia perché soprattutto in momenti di crisi c'è bisogno di guardare avanti, c'è bisogno di riscoprire l'impegno, di trovare delle parole per dire che cosa sarà il domani. Soprattutto nei momenti di crisi politica, nei momenti in cui manca il lavoro, è necessario cercare di capire che forme possa assumere il domani. Per farlo è necessario lavorare insieme. La tentazione, il rischio, è di accontentarsi del tempo presente. In fondo, questo è il ragionamento che abbiamo fatto con Gustavo Zagrebelsky, con il comitato scientifico. Che cosa rischiamo? Di cercare il piacere dell'immediato, di cercarlo nella vita privata, e c'è bisogno di qualche cosa che ci unisca, ci tenga insieme, e questo qualcosa sono dei fini, degli orizzonti comuni, non un fine, non un obiettivo, fini diversi di persone che in cammino insieme scoprono qualcosa. In questi primi giorni di Biennale ne abbiamo sentiti di cammini fatti insieme, abbiamo parlato di resistenza al land grabbing, abbiamo parlato di nuovi stili di vita, di nuovi stili di consumo, di modi di produrre diversi, dei mondi creati dalla scienza, degli immaginari della fantascienza. E l'utopia in qualche modo vive già qui, a saperla vedere. Vive già intorno a noi, nel senso che i cittadini, i giovani, si impegnano, hanno già cominciato a cambiare. È sbagliata l'immagine di chi pensa che il tempo presente non presenti margini di utopia o di cambiamento. A saperlo vedere c'è qualche cosa in moto, e tutto questo abbiamo voluto valorizzare, come sempre, a partire dal lavoro con i ragazzi. C'è una citazione di cui adesso mi sfugge l'autore, che secondo me è bellissima e potrebbe anche racchiudere un po', fa bene eco a quanto appena detto da Gabriele, che il futuro è già qui, è solo mal distribuito. Forse dovremmo cercare di distribuirle meglio le utopie, soprattutto nel nostro paese rispetto ad altre parti del mondo. Sì, c'è un'altra citazione simile che parafraso di Lamartine, un autore che nel 1848 si era speso per il cambiamento sociale, diceva che le utopie di oggi sono le realtà di domani, è una parafrasi, ma bellissimo, questo è il concetto. Sì, questo è un po', è stato il leitmotiv di questi giorni, a partire dalla lezione inaugurale con il presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Laura Boldrini ha parlato senza... quella di Laura Boldrini non è stata una lezione, è stato un momento di in cui ci si è ritrovati istituzioni e cittadini. Per chi ha vissuto l'inaugurazione di Biennale Democrazia, quello sa che è stato un momento particolare, non soltanto per le standing ovation e gli applausi, ma perché il clima di quella serata inaugurale è stato un clima di condivisione, in cui ci si è risentiti uniti, si è trovato di nuovo l'idea di una possibile marcia verso qualche cosa, l'aspettativa di qualche cosa di nuovo. Concordo, secondo me poi tra l'altro il passaggio che la Boldrini ha fatto sulla vergogna della povertà è stato da pelle d'oca, io mi sono veramente emozionato. Molti di noi erano commossi e quasi si vergognavano di questa commozione, ma è stato bello scoprire che eravamo tutti insieme commossi di queste parole molto semplici pronunciate dalla Presidente della Camera, parole semplici e forti, parole di chi aveva alle spalle un'esperienza vissuta con i profughi, i rifugiati, nella sua esperienza di commissario, oggi un'esperienza che si spera che si travasi nelle istituzioni, anche con il per quanto il quadro, come sappiamo, politico sia molto incerto, e quindi l'auspicio è quello che questa, appunto, che questi semi di futuro non cadano, servano a germinare magari più avanti, magari tra poco. Cioè, vabbè, finisco con le citazioni, poi cambio argomento. I Corvoleno, che sono un gruppo rap, dicono in una canzone: butto semi al vento, magari fiorisce il cielo. Secondo me è quello che ha fatto la Boldrini mercoledì sera. Ti faccio una domanda più generale. Siamo alla terza edizione di Biennale Democrazia. E che cos'è Biennale Democrazia per Torino, dopo tutti questi anni? Beh, io sempre più ho seguito questa manifestazione dalla prima edizione e mi confermo sempre più nell'idea che una manifestazione come Biennale Democrazia, intendo dire una manifestazione che non appare come un meteore per scomparire, ma che cerca di consolidare le sue radici nel rapporto con la società, con i giovani, con le associazioni, sempre più mi confermo nell'idea che questa è una parte di quello che chiamiamo il welfare, e cioè lo stato sociale. E la premessa sociale, che cos'è intanto Biennale Democrazia? È una manifestazione culturale, con un grande valore civile, ma è una manifestazione culturale. Non è una manifestazione politica, non ha come obiettivi la trasformazione della società. Ha come obiettivo riattivare la discussione pubblica, il confronto, a partire dalla cultura. Cultura deriva da colere, coltivare in sostanza, no? Coltivare. Allora, coltivare è una delle attività principali che può fare uno Stato che funziona bene, una collettività che funziona bene, coltiva le sue potenzialità. Biennale Democrazia, l'impressione che ho è che sia diventato sempre di più nelle sue edizioni un'occasione per coltivare e per far crescere i giovani che partecipano ai laboratori, che voi, ACMOS, seguite con questa cura dalla prima edizione, per dare ai cittadini l'occasione di mettere in confronto anche idee divergenti. Un altro carattere fondamentale di Biennale Democrazia è il pluralismo, la pluralità delle opinioni che si ospitano. Non si viene ad ascoltare passivamente, non si viene ad ascoltare una voce sola, tanto per cominciare, ma più voci, neanche un coro, a volte voci dissenzienti, e si viene a farlo con un'attitudine che chiamerei partecipativa. Come sapete, sono moltissime le occasioni in Biennale per i cittadini di partecipare. Per i ragazzi l'occasione è partecipare ai laboratori e poi presentarli alla cittadinanza, per i tanti ragazzi che frequentano i CTP, quelle che un tempo erano le 150 ore, raccontare le proprie esperienze di migrazione, a volte sono storie che non, inaudite, mai ascoltate prima, quindi dare parola, soggettività a chi non ce l'ha in pubblico, iscriversi a seminari, a momenti di discussione pubblica. Allora, tutti questi sono modi per coltivare, tutti questi momenti di discussione sono modi per coltivare la nostra coesistenza. Siamo condannati, se vogliamo, ma è una bruttissima parola ovviamente, a coesistere, a vivere insieme. Viviamo insieme, anzi, probabilmente nella natura umana c'è una naturale propensione alla coesistenza. Kant diceva che l'uomo è un essere che è caratterizzato da insocievole socievolezza. E l'uomo è un essere per certi versi mosso da appetiti, desideri individuali, ma sempre sociali. Allora, Biennale, stiamo divagando, ma è un piacere farlo con voi, è anche un modo per coltivare tutto questo. Quindi Biennale è per Torino, dovendo concludere, questa è una occasione di coltivare lo stato sociale, questo direi. Io torno da Kant, scendo un po' più nel pragmatico del programma. Vi dico che sul sito biennaledemocrazia.it trovate il programma completo. Ora siamo a tre quarti della manifestazione, possiamo dire, c'è ancora domani. Ti chiedo, Gabriele, prima di mandare il pezzo, qual è la cosa che ti porti via? Cioè, qual è la cosa che ti ha più colpito di questa manifestazione? Ma sono due, uno l'ho già ricordato, resterà impresso nella mia memoria il clima della lezione inaugurale con Laura Boldrini. Il secondo momento è la serata di ieri, Ferite a morte, è lo spettacolo curato da Serena Dandini con testimonianze di donne che hanno la rivisitazione di parole pronunciate da donne che hanno perso la vita o che hanno subito la violenza dei loro mariti, dei loro compagni, degli uomini. E non so con che animo lo porto con me, non saprei descriverlo, lo porto con un animo sofferente, dolente, ma anche con una sfida per il domani, nel senso che penso che da domani si tratterà per noi maschi farci le stesse domande che ieri erano poste dalle donne che parlavano attraverso le attrici, dalle donne che hanno subito violenza. Io penso che sia giunto il momento che queste stesse domande e questa stessa ferita, ecco, sia descritta, analizzata, messa a nudo dagli uomini, perché sono gli uomini i soggetti di questa violenza e sappiamo che vogliamo tutti uscirne. Grazie mille, io grazie a voi. Ringrazio Gabriele Magrin, coordinatore scientifico di Biennale Democrazia. Mandiamo un pezzo. Marco, che pezzo? Eros, che pezzo? Adesso ci ascoltiamo a Sleep in the Parks con Lies. Smiles are on, but the clothes are out. What they see and what I get from you now. Start to panic when you wind me up. There's no need for all the acid dripping from your tongue. Make a scene and watch your friends all even one by one. If the air is clear enough, will we ever be the same? We can't lie. Rieccoci in onda, Marco. Ciao. Bene, io ci tengo ancora a ringraziare Gabriele per le parole di prima. Non tanto fare dei ringraziamenti di circostanza, ci tengo a ringraziarlo anche da partecipante nelle edizioni precedenti di Biennale Democrazia. Ho trovato il suo intervento molto bello e le sue parole sono state veramente efficaci. Ho partecipato anche il primo anno prendendo parte a quello che era stato studiato per i giovani partecipanti a Biennale Democrazia. So che quell'anno, Marco, cosa succedeva il primo anno? Ah sì, noi il primo anno e il secondo, quindi l'edizione del 2009 e del 2011, abbiamo avuto la possibilità di realizzare dei campus per i giovani. Il primo anno, anche con Marco, ci siamo accampati con delle tende nel cortile dell'Hiroshima in via Bossoli a Mirafiori. Il secondo anno, nel 2011, per celebrare il 150enario, ci siamo invece insediati nell'ex caserma di Via Asti. Quest'anno purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di fare un campus di questa portata, perché erano momenti residenziali per 150-200 persone. Abbiamo fatto un campus in formato ridotto per una ventina di ragazzi che si sono trovati in Casa Acmos in Via Leoncavallo 27, in Barriera di Milano. Vabbè, comunque qualcosa è venuto fuori, no? Anche quest'anno. Ah sì, certo, e quest'anno abbiamo scommesso molto sulla partecipazione di alcuni percorsi special, ce ne sono stati molti, l'ultimo questa mattina con lo scrittore Baiani e il professore universitario Bianchini. Abbiamo appunto preso le mosse dai lavori fatti nei laboratori delle scuole sull'utopia, quindi abbiamo raccolto le utopie create, elaborate, scelte dai ragazzi delle scuole dove abbiamo fatto i laboratori di preparazione, le abbiamo sottoposte a Baiani e Bianchini. È stata una mattinata intensa, molto partecipata, a tratti anche infuocata, perché i ragazzi rispondevano, interrompevano i relatori, ed è stato molto bello. Una mattinata che non si può riassumere sicuramente in 5 minuti, perché ha toccato diversi temi, dall'utopia più in senso generale all'importanza delle manifestazioni di più parti politiche, di più soggetti, fino al ruolo del docente, della scuola, il rapporto tra queste cose e l'utopia. Abbiamo però qui un giovane della Biennale, un giovane che ha fatto il campus quest'anno, si chiama Andrea Gaudino ed è un eporediese, immagino che lo conosciate se bazzicate di lì o se ascoltate Vavalla, e gli chiediamo qual è la cosa che più l'ha colpito di questa mattina. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora, per rispondere uso il metodo usato da un grandissimo eporediese già citato in questa trasmissione, che è Marco Maccarrone, che lui dice sempre, dirò due punti, e io vi dico appunto i due punti che più mi hanno colpito, i due passaggi che mi sono rimasti dentro dalla mattinata di oggi. Il primo punto è l'immobilità della scuola, in cui appunto si diceva come una città con il passare di anni, di 5-10 anni, cambia, mentre la scuola, se voi entrate anche 20 anni dopo nella vostra stessa scuola, nel vostro liceo, è tutto uguale, non cambia mai niente. E quindi c'è questo concetto strano della scuola, questa immobilità da parte degli insegnanti e degli studenti. E quindi da un lato capire perché non si investe nella scuola a livello statale, e da secondo capire che è anche un po' colpa nostra, studenti e professori, che ci lamentiamo, e si è parlato del termine lamentisti professionisti, quindi queste persone che si lamentano solo ma che poi nella realtà non si rimboccano le mani. Le maniche, ovviamente. Rimboccarsi le mani è un po' difficile, effettivamente. Non ci riesce. È la prima volta che cade in questo errore. Beh, c'è la diretta, c'è l'emozione, siamo in uno degli scorci più belli di Torino, quindi ci sta a essere un po' emozionati. Andrea, c'è altro che vuoi dirci di quella mattinata? In breve, volevo solo dire che mi ha colpito il passaggio di Baiani di non usare con i ragazzi delle parole vuote, per esempio responsabilità o partecipazione, ma cercare di riempirle con dei concetti e con degli esempi più concreti che i ragazzi possono capire, ed è quello che cerchiamo di fare sempre nelle scuole, noi col progetto Scooter di ACMOS. Comunque grazie per questo spazio e grazie a Radio Abbaualla e Viva Ivrea. Viva Ivrea dal carnevale ad oggi. Tra l'altro, a proposito di parole vuote, c'è il ministro Barca che aveva usato questo termine, com'è caloba, calobopa, non avete nessuno letto, c'è un termine che nessuno conosce, citato in questi evidentemente 8 punti. Tu sì. Per... Sì, beh, l'ho letto, evidentemente nessuno va su internet da tre giorni, quindi smetto di parlare a questo punto e lanciamo il pezzo. Ci ascoltiamo il prossimo pezzo, ascoltiamo Barry Yoko con Tad. I seem confused to you, angry about you too, and you got no idea for how long I've been here. I wish I were insane. You wish me. Eccoci, no. Ok, visto che sono circondato da persone che non leggono su internet, la parola pronunciata da Barca è catoblepismo, e tra l'altro si tratta dell'espressione del neologismo usati nel 1962 da Raffaele Mattioli per indicare il legame perverso prodottosi in Italia alla vigilia della crisi del 30-31 fra grandi banche italiane di credito ordinario e industria. Insomma, parole vuote. A proposito di parole vuote, catoblepismo è un esempio di questo genere. Noi stiamo per concludere, lascio la parola quindi a Marco, il resident DJ di Radio Abbaualla. Esatto, vabbè, dai, io vi seguo da giovedì. E oggi chiudiamo, si può dire, in bellezza? Sì, sì, dai. Beh, rispetto a ieri, sì. Va bene. E ci tengo a ringraziare tutti, a ringraziare voi del Performing Media Lab. Ringraziamo Marco, ringraziamo Eros, Andrea, Manuel, vabbè, adesso sicuramente si staranno chiedendo Roberto, chi è Manuel, Roberto, Marco. Viviana, insomma tutti, per usare un'espressione celebre di Manuel Femia. Poi ringraziamo anche tutti i ragazzi di Radio Abbaualla che sono venuti qui in questi tre giorni, ringraziamo Armando, Alberto, Roberto, oggi ci sono Davide, ci sono Filippo, Marco, e insomma tutte queste persone che hanno reso possibili queste tre dirette. Che non saranno isolate, quindi qua sul sole del Piazza Carignano ci impegniamo a fare altre dirette dal Performing Media Lab. Bene. Aspettateci. Siamo contenti della vostra collaborazione. Sarà veramente una bella esperienza. Grazie. E cosa diciamo ancora? Biennale Democrazia, finisce domani, giusto? Biennale Democrazia finisce domani. Domani purtroppo non ci sarà una diretta di Radio Bawalla, però stanno per suonare gli Indianizer, quindi se siete ivrea saltate in macchina perché tra un po' cominciano e venite. E domani ci saranno comunque altre animazioni di piazza, e per il programma della giornata, nel caso voleste seguire qualcosa, biennaledemocrazia.it. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, e adesso ci ascoltiamo Falling Blind con Cupid Kills. Aim at me, let your arrow fly. I'm not afraid to die. Far from me, and I won't fall from.